Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Ci sono dei magistrati in Italia che non fanno rumore, che lavorano in silenzio e in quel silenzio producono. Anzi, dirò di più, ci sono dei magistrati che lavorano in silenzio, ma il rumore lo fanno fare quando mandano le ruspe ad abbattere i manufatti abusivi. È il caso che affronteremo oggi. Siamo in Campania, più precisamente siamo nella provincia di Napoli, dove c'è un magistrato che si chiama Ugo Ricciardi, un sostituto procuratore della Repubblica, che con il collega Giuseppe Luca Antonio ha le prese con un problema drammatico in Campania. Drammatico ovunque, ma perché in Campania lo è di più? Innanzitutto perché i manufatti abusivi in Campania, voi lo sapete perché abbiamo fatto moltissime trasmissioni e puntate su questo, è un problema sentitissimo, e poi perché dietro gli interessi dei manufatti edili molto spesso, quasi sempre, c'è o l'illegalità diffusa, perché chiaramente un manufatto abusivo già di per sé stesso è illegale, oppure c'è quasi sempre la criminalità organizzata, che da quelle parti si chiama camorra. Questo magistrato Ugo Ricciardi prosegue nel suo lavoro, ma prosegue mica tanto semplicemente, perché la macchina gli ha danneggiata, le minacce gli sono arrivate e nel suo ufficio alcuni mesi fa sono entrati rovistando tra i file del suo computer. L'ultima bravata che questi qua del crimine da quattro soldi hanno commesso è stato sfregiare le mappe delle case fuori legge. Buongiorno dottor Ricciardi. Buongiorno a lei. Allora, l'ho presentata bene o l'ho presentata male? Allora, ci descriva un pochino il suo lavoro alle prese con questi manufatti abusivi. Ci racconti cosa sta facendo, per esempio, in questi giorni? Ma guardi, io prima di tutto specificherei che il problema non è solo campano. Ah, certo. Il problema dell'abusivismo a livelli elevati è da Roma in giù. Assolutamente. Tenga presente che siccome nel meridione d'Italia purtroppo i problemi sono esasperati, vuol dire che comunque nel resto dell'Italia il problema esiste, solo che noi al sud li abbiamo tutti in maniera esasperata. È vero. Le posso dire che noi lavoriamo giustamente in equipe, e assieme a noi, esempio, lavora in equipe con noi, coordinato, la Sicilia. Barcellona, Pozzo di Cotto, il procuratore esempio molto attivo sul fenomeno delle demolizioni. Beh, il procuratore di Lamezia Terme, ad esempio, Salvatore Vitello, è molto attivo su questo fronte. Tenga presente che noi abbiamo avuto vari incontri con, addirittura col Consiglio Superiore, con i vari procuratori del Meridione d'Italia, dove certo, abbiamo affrontato tutti insieme questo problema. Ecco, ma a Napoli lei quanti ne ha censiti, o meglio, non tanto lei, ma quanti ne avete da buttare giù? Guardi, noi siamo nell'ordine di migliaia, ma decine di migliaia, perché personalmente io coordino la struttura demolizioni della Procura Generale con il procuratore generale attuale, il dottor Mastrominico, che è il nostro supervisore, e noi coordiniamo 393 paesi della Campania. Mamma mia, e quante case avete abbattuto finora? Case, immobili, capannoni, comunque strutture non autorizzate? Sì, ma tenga presente che siamo intorno, tra demolizioni nostre e autodemolizioni sollecitate, siamo intorno ai 300. Ecco, ma una curiosità, le trovate le ditte che abbattono, oppure fate come Vitello alla Lamezia Terme, che è stato costretto a chiamare il genio militare dell'esercito da Palermo, perché ovviamente nessuno poi ha il coraggio di mettersi contro queste famiglie, queste cosche calabresi piuttosto che clan campani? Ma guardi, noi siamo riusciti a stilare un protocollo che ci permette di selezionare le ditte. Non solo, ma una volta che abbiamo l'elenco di queste ditte, le mandiamo al prefetto per la informativa e la liberatoria antimafia. È certo, perché magari dal punto di vista sostanziale, però attenzione, non formale, le ditte che sono iscritte alla Camera di Commercio hanno tutte quante il certificato. Certo, antimafia. Quindi lei mi vuole dire che insomma andate un pochettino a ravanare un po' più nel profondo, in profondità, sì, per vedere se queste effettivamente sono mafiose o meno. Insomma. insomma. Sì, ma certo. Era presente, comunque il problema non è solamente mafioso camorristico. Certo. Qui c'è di tutto, qui abbiamo di fronte la criminalità comune, sì. Possiamo avere anche il preside della scuola. Ah, indubbiamente. Ovviamente con questa illegalità diffusa si è costruita la casa e al limite detiene anche legalmente un fucile che quando è il momento ce lo punta contro. Ah, sì, ecco. Ma vi sono capitati episodi come questi? Ma guardi, noi addirittura in alcuni casi, con la collaborazione stretta degli organi di polizia, prima di effettuare la demolizione abbiamo dovuto far fare le perquisizioni per la ricetta di armi. Mamma mia. Senta, proprio ma... per cautelare prima gli organi di polizia. Certo. Senta, ma chi sono secondo lei, ovviamente non le chiedo nome e cognomi, ma se si è fatto un'idea di chi sono quei buontemponi figli di Beep che sono entrati nella sua stanza per ravanare nel suo computer? Può essere chiunque, anche addetti ai lavori, non lo escludo. Addirittura? Ma per forza, è un problema di illegalità diffusa. Tenga presente che in passato, ma parliamo anche di recente passato, l'abusivismo edilizio era il bacino elettorale dei sindaci. Il sindaco, quando ha preso i voti in questa maniera, ed è il primo che ha l'obbligo, il dovere di procedere alle demolizioni, non le fa. È ovvio. Assolutamente d'accordo. Così come ovviamente potrebbe essere stato qualcuno che aveva interesse nell'ambito delle istituzioni a sfregiare le mappe delle case fuori legge, ma suppongo che lei comunque avrà una fotocopia di queste mappe. Guardi che le mappe sono con quella programmazione sono bloccate a molti mesi fa, perché nell'ufficio del dottor Luca Antonio, che è adiacente al mio. Sì. Scassinarono la porta. Certo. Lei comunque va avanti per la sua strada, certamente non si mette paura di questi. Anzi, tenga presente che la cosa bella e utile è che il Consiglio Superiore ha deliberato l'istituzione di 4 corsi di formazione sulle demolizioni a livello nazionale. Ah, bene. Proprio per stimolare tutti gli altri magistrati italiani a muoversi in questo settore. Eh sì, perché è molto delicato. E perché se ci muoviamo tutti non ci sono più sovraesposizioni. Assolutamente d'accordo, ed infatti io li sentirò tutti, i suoi colleghi adesso pian piano li sentirò, perché così almeno aggiungiamo il nostro anello di legalità al vostro anello di legalità. La ringrazio Ricciardi per questa chiacchierata. Grazie a lei. Grazie, buona giornata. Pure a lei. E ringrazio ovviamente in regia Michele Previato e in studio Laura Fagin. Da Roberto Calullo una buona giornata.